Eccoci qua, bentornati ad All Time Rock and Roll. Ciao, ragazzi. Salve. Fatto buono. Sempre con noi, sempre su Radio F. Io sono Luke, fiaccanto a me c'è il Patru, ciao. Io sono il nonno, come sempre. Poi i due tecnici, il biondo, Bindo. Bentornati, ragazzi. Allora, oggi iniziamo la 17ª e ultima puntata. Ma io oggi ho da farvi una domanda molto importante. Cioè? Che giorno è oggi? Mercoledì. E secondo voi piovarà o non piovarà? Farà lu. Tanto per si cambiare. Si vedrà. Chi lo sa, non lo... Se le vuole lui, dalle a me. E sbuca dal nulla così. Oh, le vuoi picchi? Le vuoi fichi. Ma se le vuole lui. Storiella dai, che un giorno racconteremo. E dopo ti si racconta. Allora, ragazzi, iniziamo col dirvi che oggi non abbiamo trovato compleanni. No, nessuno. No. Però io vorrei ricordare la scomparsa di Brian Jones e di Jim Morrison, che entrambi scomparivano oggi. Rispettivamente Jim Morrison, adesso Brian Jones sinceramente non mi ricordo, sono disinformato visto che l'ho letto prima sul cellulare e non me lo ricordo. Comunque Jim Morrison è scomparso nel 1970, esattamente il giorno 3 luglio, a 27 anni a Parigi, sì, a 27 strano, anni. Vogliamo ricordarlo perché insomma è stato un grandissimo della storia del rock and roll. Adesso iniziamo con gli anni 70. Partiamo dagli anni 70. Sì, diamo un po' un... Sì. Un'infarinata generale. Abbiamo sfociato, siamo sfociati nel mare degli anni 70. E praticamente questi anni 70 possono essere definiti il periodo d'oro del rock. Una vera rivoluzione. L'introduzione di tastiere, ad esempio, fu uno dei grandi cambiamenti di quel periodo. L'affacciarsi di nuovi gruppi, ma poi soprattutto nuovi arrangiamenti musicali. È l'epoca delle sperimentazioni e di tantissimi sottogeneri. Poi, fra l'altro, fra le band di maggior risalto in questi anni citiamo i Led Zeppelin, che contribuirono alla scrittura di un pezzo significativo della storia del rock, gli intramontabili Rolling Stones, i Beatles, Pink Floyd, AC/DC, Velvet Underground, i Doors, appunto, i Sex Pistols e i Ramones. E poi cantanti solisti come Janis Joplin, Bob Marley, Iggy Pop, Frank Zappa, Patti Smith e Alice Cooper, il re del horror rock. I Pink Floyd, ad esempio, sono tra i gruppi che hanno sfruttato le infinite variazioni musicali che gli permettevano gli strumenti, generando quasi un nuovo genere musicale, fatto di canzoni interminabili, poche parole, sogni in technicolor e l'immancabile chitarra che metteva suoni sempre più strani e sempre più nuovi. Avvicinandosi sempre di più alla fine dei mitici anni 70, in particolare nel 77, cominciò a formarsi anche un nuovo movimento che ben presto, come al solito, divenne anche un genere musicale, il punk rock. Rock and roll can never die, recitava Neil Young in una sua famosa canzone del 1979. Al di là dei proclami, era chiaro quanto fossero critiche le condizioni di un genere musicale che aveva per molto tempo fatto parlare di sé. Perduto lo slancio vitale negli anni 60, il rock rischiava così di disperdersi nei mille rivoli di una creatività quasi del tutto sopita. Negli anni 70 si era constatato quanto pericoloso fosse la scomposizione di un genere che sembrava monolitico in mille etichette impazzite. Si era parlato a proposito di glam rock, progressive rock e hard rock e così via, testimoniando in tal modo le tante parentele presenti. La musica elettronica del decennio che stava nascendo convogliò il rock in forme diverse, lasciando solo ad un manipolo di affezionati adepti l'onore di perpetuarne le gesta e forse difenderne la memoria. Il gruppo inglese The Clash, famosi per sfasciare gli strumenti musicali alla fine di ogni concerto, creando anche una moda che ebbe numerosi emuli, idearono il combat rock, una storia di musica militante che dava il titolo anche ad un famoso LP. Rocker solitari come Bruce Springsteen e il cantante Bryan Adams si impegnarono altresì a fondo nel tentativo di preservare la purezza di quella musica dagli attacchi di chi voleva distruggerla. E praticamente gli avversari erano tanti, forse addirittura troppi. Si può infatti affermare che la figura quasi istituzionale del rockettaro sia declinata in corrispondenza con l'accresciuta importanza assunta dai rapper e dai disc jockey, Infatti, come tutti sappiamo, negli anni fine 70, inizio 80, iniziò anche la disco dance, la disco music. Non si poteva nemmeno ignorare il fondamentale ruolo svolto dai metallari, ben strutturato all'interno dei gruppi giovanili. Ciò che accade al rock negli anni 70 lo subì l'heavy metal nel decennio successivo. Anche in questo caso si moltiplicarono le sigle, i generi e le tendenze. La scena americana fu particolarmente recettiva nei confronti del cambiamento, proponendo band di notevole importanza nel panorama thrash metal come i Metallica, i Megadeth. Da qui partirono moltissime declinazioni del genere che assume l'etichetta di death metal, progressive metal, black metal, doom metal e tantissime altre. Bene, adesso cominciamo con la prima parte della storia del 1970. Ma chi? Sono io, l'infiltrato, il tecnico infiltrato, che dà il via con la prima canzone che abbiamo scelto per questi anni 70. Ed è quella di Elton John, Yacht Song. Non è che abbiamo proprio scelto. Come mai la canzone? Abbiamo tirato fuori dal bussolotto. Sì, da bussolotto. Me la cantavi sempre questa canzone. Sì, sempre. E allora vi andiamo a leggere il consueto aneddoto su questa canzone, su come è nata. Quando sei innamorato non pensi a nient'altro, almeno ai primi tempi, e Bernie Taupin era molto innamorato ai primi tempi. Faceva colazione quella mattina, come tante, nel 27 ottobre 1969, ma aveva in testa soltanto la sua fidanzata, altro che caffè o cornflakes, e avrebbe voluto essere altrove, nonostante l'affetto che provava per quel ragazzo con cui divideva la casa e scriveva musiche bellissime. Bernie Taupin tese l'orecchio, nessun rumore. Elton John dormiva ancora. I genitori di Elton, perché quella era casa di Elton, erano fuori. Prese un foglio di carta e cominciò a scrivere: It's a little bit funny, this feeling inside. Era davvero un po' buffo essere innamorati. Del resto era la prima volta che per lui, che aveva appena 17 anni. Ma tanto valeva non celare i sentimenti, non era proprio il tipo da nascondersi dietro un paravento. I'm not one of those who can easily inside. Quando sentì un rumore, era Elton che si svegliava. Inavvertitamente diede un colpo alla tazza di caffè. Ecco perché il manoscritto originale di Your Song ha quelle macchie marroni. Bernie Taupin fece leggere all'amico quello che aveva scritto. Elton rimase molto colpito e compose al volo una musica molto melodica e romantica. Conosceva la ragazza di cui Bernie era innamorato e, a parole sue, non voleva svegliarli dal torpore amoroso nel quale erano immersi. 20 minuti dopo la canzone era finita. Sarà il primo successo di Elton John, quello che fece dire a John Lennon: Elton John è la cosa più bella che abbia sentito dopo i Beatles. E adesso Elton John, Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but that is done. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof, kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest guys I've ever seen. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're. Benissimo ragazzi, questa era Your Song di Elton John. Adesso continuiamo parlandovi dei Jackson 5, ovvero la prima band in cui esordì un piccolissimo Michael Jackson, insieme, 8-9 anni, insieme ai suoi fratelli. Sì, addirittura è lui che canta. Sì. Sì, sì, sì. ABC è la hit numero uno dei Jackson 5. È stata scritta con lo stesso disegno di I Want You Back ed è stata sentita su America Bandstand nel febbraio 1970. ABC ha bussato ai Beatles per la loro canzone Let It Be, facendoli fuori al primo posto sulla Billboard Hot 100 del 70 ed è stata anche la numero uno nella classifica dei singoli per 4 settimane. La canzone è stata il primo singolo estratto dal secondo album dei Jackson 5 ed è considerata una delle canzoni d'autore della band. Si tratta di uno dei titoli più brevi che abbiano mai centrato la posizione numero uno ed è la prima canzone in ordine alfabetico nell'elenco dei risultati della Billboard Hot 100. La canzone è stata eseguita insieme a I Want You Back e The Love You Save con un medley dei Jackson 5 che, nel quale le canzoni durante il noto Jackson 1979 Destiny Tour e il 1981 Triumph Tour. Tuttavia la canzone è stata sostituita da He'll Be There per il resto della performance dei Jackson 5 del medley del 1984. E la canzone è stata eseguita ancora una volta dai fratelli Jackson nel corso del 2001 in occasione del loro 30° anniversario della nascita della band. Jackson 5, ABC. Shake it, shake it. ABC dei Jackson 5. Sta Giancarla. Molto allegra come canzone, eh? Diceva al Bindi che ha fatto? È innamorato. Che è successo? Sì, sì, sì, sì. Ah. L'ho detto prima. Di chi? Iron Man. C'è anche la maglietta. Eh sì. È prevista per dopo perché infatti annuncerò la canzone. Non annunciamo la scaletta. Adesso andiamo a parlare di Deep Purple, nello specifico di Child in Time. Pubblicata nell'album In Rock del 1970, questa cavalcata epica, che dura oltre 10 minuti, fu scritta nel 69 dopo che John Lord si mise alle tastiere e fece ascoltare al resto della band un riff di Bombay Calling, una canzone degli It's a Beautiful Day, gruppo di San Francisco nato nel 67. Sembrava fresco, originale e soprattutto sembrava l'ideale come base per un'altra canzone. I Deep Purple erano molto concentrati sul tema della guerra fredda e provarono a lavorare su un testo che avesse a che fare con quell'argomento. Il primo verso venne digetto: Sweet Child in Time, You'll See the Line, e subito dopo la spiegazione di quella che fosse questa linea, quella di demarcazione tra bene e il male. The line that's drawn between the good and the bad. La struttura è apparentemente semplice: tre accordi, un assolo di 2 minuti, parte con un giro di Hammond e un canto all'inizio quieto e poi sempre più indemoniato. In realtà Child in Time è strutturata come una suite dove ogni elemento è perfettamente incastonato. Curiosità per i feticisti. Perché per i feticisti? Questo non l'avevo letto. Richie Blackmore, famoso per la sua Fender Stratocaster, qui invece, in questa canzone, suona una Gibson. Ma che c'entrano i feticisti? Perché sono quelli che si attaccano... Taglia! Thank you. i Deep Purple con Child in Time. E adesso, che assolo, e adesso per rispondere al signor Lucaroni, diciamo che cosa vuol dire il termine informazione. Sì, feticismo. Allora, preso direttamente da Wikipedia con i nostri potentissimi mezzi. Tanto, siccome se andava lunghi, perdiamo altro tempo. Vabbè, in entonologia si definisce feticismo una forma di religiosità primitiva che prevede l'adorazione di feticci, ovvero di oggetti, spesso manufatti antropomorfi o zoomorfi, ritenuti dotati di poteri magici. Sta Giancarla. E bravo. Nannotti sempre super informatissimo. Grande. Wikipedia aiuto. Wikinanno. Oh, e adesso continuiamo e andiamo a parlare dei mitici Creedence presenti negli anni 70. Un po' ovunque presenti. Io sono innamorato dei Creedence. Favolosi. Sono paurosi. E andiamo a parlare di Looking Out My Back Door. È una canzone registrata dalla band americana, appunto, Creedence Clearwater Revival. La canzone è stata scritta dal cantante della band, chitarrista e compositore John Fogerty, che ha continuato ad avere una carriera solista di successo dopo la rottura della band nel 1973. Il brano è incluso nel loro album del 1970, Cosmos Factory, considerato il migliore del gruppo. È stato disco d'oro e nei primi anni 90 addirittura disco di platino. Nel 2003 Cosmos Factory si è classificato al 265esimo posto dei 500 migliori album di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stones. Tuttavia l'album segnò il declino e la conseguente fine della band. Looking for out my back door, cosa ho detto? Looking out my back door è un omaggio diretto al suono Bakersfield, una forma di musica che ha influenzato John Fogerty e il suono Creedence. Butch Owens, uno degli architetti del suono Bakersfield, è anche menzionato nel testo della canzone. E adesso i Creedence con Looking Out My Back Door. Front door, oh boy, got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sets in, pretty soon I'm singing, do, do, do, looking out my back door. This giant doing cartwheels, statue wearing high heels, look at all the happy creatures dancing on the lawn. Dinosaur patroller, listening to Buffalo. Perfetto. Fai tutto te, mi raccomando. L'ho detto, pronti via. Sì, pronti via, infatti. Contest. Sì. Contest. Diavolo boia. Oh, contest. Il concorsone. Ha vinto il Mazzeo. Bravo, Masa. Pronto. È la prima volta. La prima vittoria. La prima volta. Stasera cena per tutti. Complimenti. Ah, no. Stasera champagne. Sì. Che canzone avevi scelto, Bindo? Non me lo ricordo, ragazzi. Ma come si fa a ricordarselo? Te rendi conto? C'è bisogno che la devo dire, è fantastico. Purtroppo non, non l'ha vinto. Non dai, so lanciamo subito la vincente. Darla. Masa, lanciala a te, dai. Sì, dai, allora. Lanciala a te, che avevi per scelto. Per colpa di chi? No, Zucchero. Come? Non era Funky Gallo. No, no, no, era per colpa di chi? Zucchero per colpa di chi? E comunque la mia era New Radical. Ah, ok. Ma voi, dopo pochi. Voi, quando eravate un pochino più piccoli, che ascoltavate questa canzone, che magari era appena uscita, non avete mai avuto il desiderio di conoscere zio Rufus? Adesso vi parliamo di Santana. Benissimo, continuiamo con la storia del rock. Santana. C'è o un perlomeno momento di sapere chi è. Scusa, vai Luke. C'è un momento. Chi è zio Rufus? Quando inizia la canzone dice: intanto zio Rufus sta con i suoi pensieri in testa, portando a giro la vita. Di Iron Man, a fare la sabata, composta l'intero gruppo. Benissimo ragazzi, la puntata è finita, ci sentiamo la prossima. Ciao. Ciao. Buon figli. A parte scherzi, ultimiamo, sennò qui se ne esce stasera. Dunque, c'è un momento nella biografia di Bruce Springsteen, scritta da Dave March, ovvia dal titolo Born to Run, ovvia, che descrive alla perfezione il senso di ovvia e frustrazione di chi ha dentro qualcosa che non riesce a esprimere e che finalmente un giorno capisce che la musica può essere il veicolo giusto. È quando Springsteen decide che la sua prima volta che ha avuto il coraggio di sostenere il suo stesso sguardo allo specchio senza scappare è stato quando ha preso una chitarra in mano. È lo stesso principio che è alla base di Samba Patì di Carlos Santana. Passava davanti allo specchio e non riusciva a fermarsi, perché quello che vedeva, come ha ammesso in un'intervista a Mojo nel novembre 2008, non era lui, ma un ragazzo che voleva essere qualcun altro. Un musicista come B.B. King o George Benson o Peter Green. E allora, quel pomeriggio, prese la chitarra e cercò di tirare fuori quello che aveva dentro. La rabbia, l'insoddisfazione, l'orgoglio, la voglia di vivere in prima persona. Così nacque Samba Patì. Quando qualche mese dopo, nel 1970, in quella stessa camera, la radio trasmise per la prima volta la sua canzone, Santana corse allo specchio e quel che vide gli piacque, nel bene o nel male, era diventato finalmente se stesso. Santana con Samba Patì, tutta strumentale, non l'avevamo detto, però. James Gang Rides Again è il secondo album della band americana James Gang, uscito nel 70. Questo è stato il primo album della band dopo l'uscita dal gruppo del bassista Dale Peters, sostituito poi da Tom Chris. Il critico Stephen Thomas Ederbein scrisse dell'album: con il loro secondo album, Rise Again, i James Gang si sono messi in proprio. Lo scrivere canzoni di Wash è notevolmente migliorato, dando un supporto solido alla band e ai loro esperimenti stilistici. Cosa che lega le due parti del disco insieme è la forza della musicalità della band. Bruciano vivacemente e potentemente sia sul rock più duro, così come sulle ballate più sensibili. Funk 49 è diventato uno standard del periodo classic rock ed è stato utilizzato in diversi media, tra cui, lista abbastanza lunga, Downtown and Z-Boys, film documentario 2002, film horror La casa del diavolo del 2005, nella sesta stagione della serie drammatica I Soprano nella puntata Soprano on Movies, nel 2006 nel film commedia Artie Lange Beer Lounge, nel 2008 nel film drammatico Sleeping Walking, in un campione d'apertura dei Knox nella canzone Straight Edge del loro album White Trash Two Herbs and Bean, nel videogioco Test Drive Ultimate, nel videogioco Grand Theft Auto 4, noi, durante i titoli della stagione numero 1 di Entourage. La canzone è stata disponibile inoltre per il download del videogioco Guitar Hero Rock Band il 30 dicembre 2008 ed infine è stata campionata da Fatboy Slim per la canzone Right Here, Right Now. Bevi, nano, bevi. James Gang, Funk 49. James Gang con Funk 49. E adesso andiamo a parlare della mitica, fantastica canzone Iron Man dei Black Sabbath. È un po' lunga, infatti parleremo in tre. Eh sì. Allora, guardalo contento è che è il bindo. Ho messo anche la maglietta apposta. È arrivato l'innamorato. Allora, composta dall'intero gruppo Iron Man, è stata estratta come singolo nel 1971 assieme al brano Electric Funeral. La canzone, il cui testo tratta di un argomento fantascientifico, è una delle più note di Black Sabbath e ha ottenuto nel tempo diversi riconoscimenti, tra cui l'inserimento da parte del programma musicale VH1 al primo posto nella classifica delle 40 migliori canzoni heavy metal di tutti i tempi. La vittoria per il primo premio Grammy come miglior canzone metal nel 1999 e l'inserimento al 317° posto nella lista delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stones, ricordando anche il famoso riff di chitarra della canzone e che è considerato il miglior riff di canzone heavy metal di tutti i tempi. Non male, ha raggiunto dei bei record questa canzone. Per essere genere heavy metal, che è diciamo abbastanza pesante, diciamo ricercato, non a tutti piace. Sì, questa è una canzone meravigliosa. E poi si chiama Iron Man, quindi sì, è fantastica solo per questo. Solo per quello. Il brano è stato inoltre oggetto di cover da parte di diversi gruppi, tra cui i Metallica, che hanno proposto la loro interpretazione in occasione della missione dei Black Sabbath alla Rock and Roll Hall of Fame. Ma è stata fatta prima Iron Man o prima è stato creato o la gallina? Adesso ce lo racconterà. È stata fatta prima Iron Man o la gallina? Diccelo, Bindi. Contrariamente a quanto si possa pensare, il brano Iron Man non riprende le vicende del leggendario supereroe dei fumetti Marvel. No, allora basta. Allora la mandiamo subito. Sì, vabbè, no, si salta. Saltiamo. E in effetti manca invece una propria storia. L'uomo di ferro, citato nella canzone, ha intrapreso un viaggio verso il futuro. Ma una volta arrivato vede che l'umanità verrà spazzata via da una grande catastrofe. Sapendo perciò cosa accadrà, decide di tornare nella sua epoca per avvertire in tempo l'umanità. Ma durante il viaggio di ritorno, a causa di un incidente, viene pericolosamente esposto ad un campo elettromagnetico che attraverso una mutazione genetica ha trasformato la sua pelle in acciaio. Il viaggio viene completato, ma Iron Man è stato reso muto dalla sua trasformazione ed è incapace di comunicare verbalmente il disastro imminente. Inoltre, i suoi tentativi di comunicare vengono derisi e ignorati dalla stupidità dell'ignoranza della popolazione terrestre. Non potendo sopportare tutto ciò, ed in un certo senso costretto dal caso, Iron Man vuole vendicarsi dell'umanità che lo ha già troppo deriso ed è così che decide di armarsi e di approfittare dei suoi poteri acquisiti per distruggerla. Si rende così conto che la distruzione che aveva visto durante il suo viaggio nel tempo era stata causata proprio da egli stesso. Ma lo sai che ha voluto vendicarsi della razza umana. Ma lo sai che questa storia è anche meglio di quella del fumetto? È proprio bella, è profonda. Manca, bella. Aspetta, ti puoi aprire la bocca, hai un po' di saliva al lato. manca Jarvis. Ha fatto la ricottina. Bene, adesso la terza parte verrà letta da un altro componente del fans. Sì, del trio della maglietta. Sì, non l'ha messa. Vi elenchiamo un po' di curiosità. Allora, le più, diciamo, famose e particolari sono queste. Una, l'effetto della voce di Ozzy Osbourne mentre pronuncia le parole I'm Iron Man a inizio brano è stato realizzato parlando davanti a un ventilatore. 2. Nonostante la canzone non abbia alcun collegamento con l'omonimo supereroe, in maniera abbastanza spettacolare sono state inserite alcune sezioni del brano nella colonna sonora del film Iron Man del 2008, precisamente nella scena finale in 3D trasmessa prima dei titoli di coda e nel trailer dello stesso film. 3. Il rapper Busta Rhymes usò le basi della canzone per il suo singolo This Man's War con lo stesso Ozzy Osbourne come guest vocalist. 4. Iron Man è stata reinterpretata anche dagli svedesi Cardigans per l'album Fist Band on the Moon. 5. Il brano è presente anche nel film Lords of Dogtown durante la prima gara di skateboard. 6. Il brano è presente in una scena del film Detroit Rock City. L'avete visto? No. È bellissimo, parla dei Kiss. È meraviglioso. 7. Il brano è presente anche in un episodio di Futurama il gioco del se fossi nella scena in cui Bender è un robot gigante e vola verso la Terra. Ah, l'ho visto! Più bella, bellissimo! E per ultimo il brano si sente brevemente anche nel film School of Rock, in una scena in cui Jack Black suona il famoso riff della canzone. Avete visto quello il film? Sono almeno 5-6 volte. Che domande fai? Signore e signori, Iron Man. Black Sabbath, Iron Man. Abbiamo svelato l'arcano perché abbiamo scoperto che il personaggio creato da Stan Lee di Iron Man è stato cioè la sua prima uscita è stata nel 63, quindi antecedente alla canzone dei Black Sabbath. E ora andiamo a parlare di John Lennon. Dal primo album post-Beatle di John Lennon Plastic Ono Band, che era la band della moglie, anno 1970. Prima curiosità, Lennon si considerava un esponente della classe lavoratrice, forse anche un eroe, ma dei Beatles era l'unico a essere nato e cresciuto in una famiglia borghese della classe medio-alta. McCartney, Starr e Harrison, loro sì che erano cresciuti nella working class, e per questo salutarono con poco entusiasmo la canzone. La risposta di Lennon fu impeccabile: ognuno è quello che si sente e soprattutto ognuno è come si comporta. La versione originale è frutto di due diverse take. Se fate attenzione, a un certo punto sentirete chiaramente un cambio di suono di chitarra e voce. Il verso che dice «Devi imparare ad avere un sorriso che uccide se vuoi essere come quelli sulla collina» per anni è stato interpretato come un riferimento alla canzone dei Beatles «The Fool on the Hill». In realtà si riferisce ai politici di Washington DC che governavano l'America e il mondo. Il delegato democratico della Casa Bianca del tempo per il West Virginia, Harry Orrin Sturgis, denunciò la radio WGTB dopo aver ascoltato la canzone per la parola fucking ripetuta due volte nel testo. Il manager dell'emittente fu condannato così a un anno di prigione e a una multa di $10,000, che per il tempo insomma erano tanti soldi, ma difese la sua scelta di trasmettere la canzone. Infine le cover prestigiose dai Green Day ai Manic Street ai Noir Désir ai Tin Machine, David Bowie, Marilyn Manson e Maroon 5. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. You want to be like the folks on the hill. class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. Non penso che piango come si deve da quando ho 14 anni, ma sul palco ho notato del liquido che viene fuori dai miei occhi e nello stesso tempo sto gridando per far uscire dalla mia testa qualcosa di parecchio emozionale. Non è una sensazione di tristezza, è piuttosto un'estrema realizzazione del passato ed è veramente piacevole, ma non penso che sia un pianto tradizionale. Matthew Bellamy, cantante dei Muse, che tra l'altro questo fine settimana saranno a Roma, sabato sera, sì, beati di voi chi ci andrà, tipo io. Hysteria, Muse. Ufficiale, questa canzone qui fa il delirio. Muse, Hysteria. E adesso, come diceva Franco Battiato, non voglio sentirmi intelligente guardando dei cretini, voglio sentirmi cretino guardando persone intelligenti. Serenate all'istituto magistrale. Cucuru cucu, il tecnico. Ci fai gli scherzi. Dovevi stare attento. Un po' di musica italiana, un pochino, dai. Dai. Un po' l'abbiamo messo. Abbiamo finito anche oggi, ragazzi. Abbiamo sforato qualche minuto. Vabbè, dai, non importa. C'era tanto parlato oggi. Sì, oggi veramente tanto, tanto. Abbiamo presentato gli anni 70. Abbiamo presentato gli anni 70. Quante puntate si faranno più o meno? Che non l'abbiamo detto. 4-5 tutte, perché erano quarantina canzoni, sì, più o meno. Quindi direi più o meno 4-5 puntate, sì. Ricordiamo come tutte le settimane la pagina Facebook Old Time Rock and Roll Radio F Valdichiana, già da domani il podcast di questa puntata, quindi ve la potete riascoltare, e da venerdì il contest, quindi le 5 una cosa sulla pagina, cioè non vergognateci a scriverci o farci le richieste, noi le mettiamo le canzoni, vero. Perché soprattutto mi piace tantissimo questa pagina, mi piace tantissimo. Invitate tutti. Invitate. Da venerdì ancora il contest, quindi le 5 canzoni che potete votare, e la vincente andrà in onda. Ci risentiamo mercoledì prossimo. Il podcast come... l'hai detto? Sì, l'ho detto. Ah, bravo. L'ho dettissimo. Bravo. Tutto. Ascolti, Valerio, non ascolti. Non è attento. No. Lei non è attento. Grazie. A mercoledì prossimo. Ciao a tutti. Ciao.